Sangre caliente. Aida, ¿dónde estás? Aida, ¿con quién estás? Aida, vieni con me. Aida, non lasciarmi solo. Aida, inizio ad aver paura. Aida, fammi viaggiare. Aida, nella tua mente. Aida, ho bisogno di te. Un giorno tornerò. Aida, ti voglio. Aida, ti voglio mia. Aida, mia per sempre. Aida, tanto lo so. Aida, che un bel giorno. Aida, Aida, tu tornerai da me. ¿Dónde está la atención? Right now I'd like to introduce to you some friends of mine. Sangre caliente. Yeah.